sia di sole, di pioggia o di vento, osserva ogni sera, il giorno muore, questa vita scandita dal tempo, quanta speranza nel sorriso di un fiore. Vita passata tra ritmo e noia, tempo vissuto ormai andato, manca poco, poi voci di gioia, bussa nel petto un fiore aspettato. Siamo rimasti con gli occhi sul prato, l'ansia nel cuore, le notti insonni, cercare indietro, sentir com'è stato, sarà diverso essere nonni. Arare la vita, puoi seminar molto, al riparo del vento, protezioni d'amore, quello che dai non sarà mai tolto, nuove emozioni per un tenero fiore. La stessa vita tra ritmo e noia, dona momenti che fanno sognare, poco tempo e riesce la gioia, anche nel freddo farci sudare. Nuova vita, e questo l'accolto, è valsa la pena piantare quei semi, un tenero sguardo alla luce rivolto, fiore nel mondo, si chiama Noemi.